Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, questa trasmissione inizierà parlando di motori elettrici e poi invece vi racconteremo di animali che sentono il caldo. Però qui mi fermo perché sto anticipandovi i titoli e invece ascoltiamoli insieme. Sono tanti i motori elettrici presenti nelle case e nelle aziende. Se cambiassimo il modo di usarli e se utilizzassimo i nuovi modelli, la bolletta elettrica potrebbe scendere del 40%. Anche loro, come noi, soffrono il caldo e hanno meno possibilità di difendersi. Una ricerca del CNR descrive le difficoltà degli animali da allevamento durante la stagione estiva. La scienza si occupa di tutti i fenomeni. Per esempio, cosa accade a un elefante se prende una dose di LSD? Oppure perché è così difficile farsi il solletico da soli? Un libro propone una raccolta di esperimenti strani e un po' folli. L'Italia era uno dei paesi leader mondiali nella produzione della seta. Ora i bachi stanno scomparendo dal nostro territorio. A ottobre l'Area Science Park di Trieste organizza il Business Day. Nuove idee incontrano le aziende. Ma quali sono gli aspetti organizzativi e anche psicologici di questi meeting? La teoria delle reti cerca di interpretare molti fenomeni complessi e diversi fra loro, anche i processi economici. Se ne è parlato a Venezia in un seminario internazionale. Se ci pensate un po', dovrebbe venirvi facile constatare che siamo circondati nella nostra quotidianità da motori elettrici, condizionatori, frigoriferi, tapparelle che vanno su e giù e poi pensate tutti quelli che si trovano nelle aziende, nei negozi. Potrebbero essere molto diversi da quello che sono e da questa diversità si potrebbe ricavare un grosso risparmio energetico. Maurizio Melis adesso vi descrive come si potrebbe. Comprereste un'auto in cui la velocità si regola schiacciando sul freno mentre l'acceleratore è costantemente a paletta? Sembra improbabile che ci sia qualcosa di nuovo da dire su oggetti comuni come i motori elettrici, e invece no, non se si parla di risparmio energetico. Infatti nell'industria molti di questi motori elettrici funzionano proprio così, come abbiamo detto. Insomma, sono tarati sul picco di potenza e la consumano sempre tutta, anche quando ne serve un decimo. In molti casi si butta via più del 30% dell'energia usata. La situazione è paradossale, e qui però viene anche la buona notizia, perché una soluzione c'è e si chiama inverter, o se preferite variatore di velocità. È un dispositivo da applicare al motore che richiede tra l'altro un investimento davvero modesto, perché grazie al risparmio energetico si recupera spesso già nel primo anno. Però se ne sa poco, c'è poca informazione, nonostante solo qui ci sia in gioco il 2,5% del consumo nazionale e quindi anche un bel risparmio in bolletta per tutte le imprese italiane. Ne parliamo con Sigfrido Vignati, esperto di questi temi, direi anzi il principale esperto dell'Enea. Buonasera Vignati. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Dunque Vignati, gli italiani hanno bene o male sostituito nelle case le lampade a incandescenza con le nuove lampade a fluorescenza. Invece questo inverter dov'è che l'ingranaggio fa cilecca? Beh, direi che la prima causa è la scarsa conoscenza del componente per ottenere un risparmio energetico. Secondo, c'è un po' di scetticismo quindi proprio sull'argomento. E direi terzo è perché hanno un costo e come tutte le cose che hanno un costo nelle aziende si tende a non acquistarle o a rimandarne acquisto finché non sono proprio necessari. Ecco, un dato interessante però è che circa il 97% del costo di un motore elettrico nell'arco della sua vita è dato dal consumo di energia elettrica. Forse viene appunto sottovalutato questo dato. Sì, questo è un dato piuttosto importante. Nel momento in cui si acquista un motore si pensa sempre ad abbassare il costo di acquisto, ma non si pensa mai al fatto che il motore nella sua vita consumerà tanta di quell'energia elettrica da costituire nell'arco di questo periodo circa il 98% del costo di vita di un motore. Per esempio un motore può costare circa 500 euro, mentre invece nell'arco della sua vita consumerà tanta energia elettrica pari circa 30.000 euro, circa quindi 60 volte il suo costo di acquisto. Ecco, abbiamo parlato all'inizio di questa automobile un po' paradossale. Ci aiuti a capire, ci faccio un esempio di uno di quei casi in cui, per così dire, si usa il freno anziché l'acceleratore. Beh, uno di questi casi è per esempio la pompa o il ventilatore, cioè tutti i componenti nel quale per esempio la portata che lavorano, quindi può essere acqua o aria, deve essere regolata. Uh-huh. In questi casi come si fa? La pompa in un circuito e per regolare la portata si utilizzano delle valvole di regolazione, un po' come si fa con il rubinetto di casa quando vogliamo più o meno acqua. Quindi si strozza il flusso. E questo sistema è molto pratico, molto economico, certo, però è fonte di grandissimo spreco di energia. In generale quali sono quindi i casi in cui è interessante applicare un inverter, mettendosi proprio nei panni dell'imprenditore? Lei ha un suo bel capannone, si guarda intorno, che cosa deve vedere perché scatti il dubbio? Qui c'è la possibilità di fare risparmio energetico. Ecco, dovunque io vedo una pompa nel quale la portata è regolata con una valvola di regolazione, oppure un ventilatore in cui la portata di aria è regolata tramite una serranda, ecco, lì deve scattare il meccanismo e bisogna pensare a poter valutare la possibilità di montare un variatore di velocità. Questi sono i due casi principi. Sì. Poi c'è tutta un'altra casistica, mm-hmm, i compressori, i sollevatori di carico, i nastri trasportatori, però mi sembra è bene che le aziende si focalizzano soprattutto su questi due che sono molto diffusi e anche dal punto di vista poi del ritorno economico molto vantaggiosi. Ecco, anche una piccola variazione di portata può concretizzarsi in un forte risparmio. Certo, questo è vero perché la tecnologia ci dice che per esempio un 20% di diminuzione della portata mi porta a un minor assorbimento del motore, quindi a un minor consumo di circa il 50% di energia elettrica e quindi questo con un notevole vantaggio e beneficio ai fini certo, sulla bolletta a fine mese. Ecco, provi a darci qualche indicazione di costo, non tanto in termini assoluti, diciamo il rapporto costi-benefici, in quanto tempo si rientra dell'investimento insomma? Guardi, da questo punto di vista i dati per esempio che abbiamo elaborato, dichiarati dalla aziende circa i variatori di velocità, abbiamo questo dato, circa il 60% per esempio dei casi si recupera l'investimento fatto in meno di 2 anni. Concluderei ricordando che c'è tutto un altro capitolo che riguarda i motori elettrici, e cioè i motori elettrici ad alta efficienza. Le domando in una battuta: quando conviene comprare un motore ad alta efficienza al posto di uno a bassa efficienza? Beh, direi se il motore è una nuova installazione, sempre, o almeno quasi nel 90% dei casi, se è una nuova installazione. Va bene, grazie Vignati, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Noi qui in trasmissione l'abbiamo detto già più volte, ma non ci sembra vano ricordarlo ancora. Il risparmio energetico è una risorsa importante, sottovalutata. Bisogna impegnarsi a sfruttarla in 1000 modi e i modi sono 10.000. Quindi non resta che darci dentro. C'è un libro famoso con tanto di film a cui si è ispirato, L'uomo che sussurrava ai cavalli. Ora c'è anche L'uomo che sussurra agli elefanti. Non è ancora uscito in Italia ed è l'autore, in prima persona, un etologo e conservazionista sudafricano, che racconta la sua esperienza di sussurratore agli elefanti. Esperienza che concretamente significa che quest'uomo, Lawrence Anthony, in tanti anni di relazione stretta con gli elefanti, è giunto ad essere forse il miglior conoscitore di questi splendidi animali. Lui opera e studia in una sua riserva chiamata Tula Tula, nella regione sudafricana dello Zululand. Ma le dimostrazioni migliori della sua profonda conoscenza di questi animali emergono quando Anthony è chiamato per consulenze, diciamo così. È accaduto, per esempio, quando i gestori di una riserva non lontana dalla sua gli hanno chiesto di provare a intervenire su un piccolo branco di 9 elefanti che stava dando grossi problemi. Continue cariche alle macchine dei curatori del parco e anche ai curatori stessi, abbattimenti di capanne e di piccoli magazzini. Insomma, si stava addirittura pensando di abbatterli, che non ci fosse altra soluzione. Era stato predisposto un sistema molto vasto anche di fili attraversati da corrente in modo da circondare il branco e contenerlo in una zona delimitata e controllata. Senza successo però. Lawrence Anthony lo descrive nel suo libro, conosce molto bene cosa fanno gli elefanti con i fili elettrificati. Il loro sistema è molto semplice, fanno scorrere la proboscide lungo il filo, appoggiandola lievemente qua e là. E in questa operazione devono anche aver realizzato gli elefanti che la proboscide è una parte del loro corpo che conduce poco elettricità, il che significa che gli elefanti sentono la corrente in modo ridotto e sopportabile. Dunque, con questa operazione di ispezione del recinto, loro individuano quei punti, e ci sono inevitabilmente, lo si sa, nei quali la corrente è a intensità nettamente più bassa in un dato momento. E a quel punto cosa fanno? Sfondano ed escono fuori. Non solo, Anthony dice di aver perfettamente capito che gli elefanti hanno realizzato come, passando velocemente attraverso il recinto, la scossa, seppur percepita, dura poco, banale ma estremamente efficiente. Ebbene, vista la situazione complessa in atto nella riserva, con i 9 elefanti un po' nervosi, il nostro conservatore prese una semplice decisione: parlare con la matriarca, ovvero l'elefante adulto femmina che, come sempre, in questi casi, i casi sono quelli degli elefanti, guidava il branco. Qui parlare sta per parlare, nel senso stretto. Sicuro delle sue conoscenze, Anthony si metteva a una certa distanza dalla matriarca e attendeva che questa si facesse avanti minacciosa. Ma il nostro etologo a questo punto non indietreggiava e iniziava a parlare con molta calma, a voce bassa, naturalmente non pensando che l'elefantessa capisse, però con un tono di voce che in qualche modo all'animale arrivava. Così è andato avanti per una settimana, durante la quale ad ogni segnale di carica da parte della signora lui rispondeva allo stesso modo. Il risultato ad un certo punto è stato che la matriarca gli si è avvicinata e gli ha messo la proboscide sulla spalla. E da quel momento anche il resto del gruppo si è calmato. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La seta sarà al centro del nostro gioco questa sera. Siamo al quiz. Un baco da seta, uno solo intendo, un solo baco, quanto filo può produrre, ovvero di quale lunghezza? Prima possibilità, 2 chilometri, ci scriverete 2. Seconda possibilità, 1 chilometro, scriverete 1. Terza e ultima possibilità, 500 metri, scriverete 500. Dove scriverete? Beh, è il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa sera è Elefanti in acido e altri bizzarri esperimenti di Alex Noese, edito da Baldini Castoldi Dalai. Di questo libro parleremo fra poco. Vi dico subito che la soluzione di questo quiz la ascolterete più avanti nella trasmissione in un servizio dedicato ai bachi da seta. In collaborazione con IBS.it. Forse non è l'estate più calda degli ultimi anni, però il problema di cui stiamo per parlarvi è generale. Il caldo e gli animali, perché non è che loro, gli animali, abbiano i mezzi che abbiamo noi per proteggerci e il mondo che abbiamo costruito intorno a loro complica le cose per quanto riguarda le alte temperature. Chiara Albicocco vi descrive il problema e le possibili soluzioni. Loro, proprio come noi, soffrono il caldo, ma sono sicuramente più vulnerabili e indifesi. Sto parlando degli animali, soprattutto quelli da allevamento. Ecco, uno studio dell'IBIMET, l'Istituto di Biometeorologia del CNR, all'interno del progetto Clima Animal, promosso dall'Università degli Studi della Tuscia, ha individuato le zone del nostro paese in cui le condizioni meteorologiche sono più rischiose per questi animali. La coordinatrice dell'Istituto di Roma, che ha effettuato gli studi, è qui con noi questa sera. Buonasera, dottoressa Marina Baldi. Buonasera a lei. Allora, tanto per capirci, è stato stimato che la perdita economica nel settore zootecnico dovute ad un'ondata di caldo o di siccità è di circa 12 miliardi di euro per la sola Europa, e per gli Stati Uniti anche lì si parla di svariati miliardi. Ecco, voi avete studiato la situazione italiana e come siamo messi? La situazione italiana, c'è da dire subito questo, che l'Italia si trova nel Mediterraneo, quindi è molto soggetta durante l'estate a periodi di caldo molto intenso e caldo umido soprattutto molto intenso, perché in effetti quello che dà fastidio agli esseri umani come agli animali, parlo di animali di allevamento, parlo quindi di pollame, di bovini per esempio, e si parla anche di suini, e quello che dà più fastidio appunto è questa combinazione di alte temperature con alti valori e alti tassi di umidità. nell'aria. E in particolare in questo progetto noi ci siamo rivolti ad un particolare settore degli allevamento, che è quello delle vacche da latte, che è un settore abbastanza importante per tutta l'economia agricola italiana. E quello che si vede, per esempio, ci sono stati degli studi nel passato che fanno vedere come già con delle temperature di circa 27 gradi diminuisce sensibilmente l'assunzione di alimenti da parte di questi animali, e quindi poi c'è un impatto diretto sulla produzione e sulla riproduzione di questi animali, quindi produzione in termini di quantità di latte che vengono prodotte, ma anche di qualità di latte prodotto, parlando sempre delle vacche. Ecco, quindi avete dimostrato, avete osservato che in effetti patiscono, soffrono il caldo, sì. E addirittura avete stilato una mappa della nostra penisola. Abbiamo stilato una mappa del rischio in Italia che ci ha permesso di individuare 8 zone dell'Italia, o perlomeno di suddividere il territorio italiano in 8 aree, diciamo, che vanno da rischio minimo soprattutto sui rilievi alpini e appenninici fino a un rischio massimo, e il rischio massimo ce l'abbiamo, per esempio, ce l'abbiamo in tutta quanta la parte meridionale dell'Italia, ce l'abbiamo in Puglia in parte, ce l'abbiamo in Sicilia senz'altro e in parte della Sardegna. Ecco, quindi dove le temperature sono più elevate, magari voi avete preso in considerazione anche altri parametri ambientali. Abbiamo preso in considerazione appunto non solo la temperatura ma anche l'umidità, e quindi abbiamo fatto questa combinazione, abbiamo tirato fuori questo indice che si chiama indice termoigrometrico, che ci dice un po' il disagio che viene provato dagli animali, ma anche dall'uomo naturalmente. Ovviamente i valori di questo indice per cui l'uomo prova disagio sono diversi da quelli per i quali prova disagio la vacca, però comunque sia è questa combinazione che è quella che dà più fastidio. Ecco, poi noi sicuramente abbiamo diversi mezzi per difenderci dal caldo, possiamo bere, ci rifugiamo in ambienti con aria condizionata, mentre per gli animali è molto più complicato, sono sì, molto più vulnerabili. Senz'altro. Si può fare qualcosa, ci sono delle contromisure? Ci sono senz'altro delle contromisure, ci sono per esempio, a parte si può agire direttamente sull'alimentazione, per cui dare un certo tipo di alimentazione piuttosto che un altro, ma si può agire anche proprio sulle stalle dove sono ricoverati gli animali, con dei sistemi per esempio di raffrescamento. Una cosa che si è vista, abbiamo fatto durante questi 2 anni di progetto, abbiamo installato delle centraline meteorologiche all'interno e all'esterno di 8 aziende agricole nell'area laziale. Mm-hmm. Che è una zona a medio rischio? Diciamo che è una zona a medio alto rischio, mm-hmm, perché si trova, erano tutte aziende che sono rivolte verso il Tirreno, e la fascia tirrenica è una delle zone abbastanza a rischio dell'Italia, perché è quella dove appunto queste situazioni di caldo umido si presentano più spesso e più intense e più lunghe. E quindi abbiamo preso 8 aziende, abbiamo messo queste centraline meteorologiche all'interno, uh-huh, e all'esterno delle aziende, abbiamo visto come rispondevano gli animali. E allora quello che abbiamo visto, per esempio, che lì dove c'erano dei sistemi di raffrescamento, quindi questi grossi ventilatori, questi sistemi appunto meccanici di raffrescamento dell'ambiente, l'animale soffre di meno e quindi si ha meno perdita finale. Quindi, anche in termini economici. Anche in termini economici, perché naturalmente questo va a incidere sulla quantità di latte che viene prodotto e sulla qualità in termini di, per esempio, di proteine che sono contenute nel latte prodotto, che ha poi un risvolto economico appunto non soltanto così in generale, ma soprattutto in quelle piccole nicchie che abbiamo in Italia, che sono tutte quante le produzioni DOP. E ad esempio la pianura padana, che ha una densità altissima di allevamenti, forse la più alta della nostra penisola, che tipo di rischio ha? Medio alto, diciamo, soprattutto nella parte più bassa della pianura, e si va man mano decrescendo il rischio man mano che ci si avvicina alle prealpi e poi alle Alpi. E senta, lo studio come è avvenuto? Voi avete fatto dei rilievi dal punto di vista ovviamente dei parametri ambientali, poi ci diceva avete installato anche delle centraline all'interno degli allevamenti, sì, poi insomma avete accorpato i dati in un unico, sì, database. In questo devo dire che sono stati molto collaborativi tutti quanti i partner del progetto, compresi appunto, per esempio c'erano soltanto l'Università della Tuscia, ma c'erano anche altri istituti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che sono il CRA CRA, CMA e CRA Inge, ma c'è anche l'AIA, che è l'Associazione Italiana degli Allevatori, e c'è la NAFI, che sono gli allevatori di vacca frisona. Quindi tutti questi poi hanno prodotto i loro dati, li abbiamo messi in comune, in un database comune a tutti i partner del progetto, per cui abbiamo potuto tirare delle conclusioni. E per esempio sono state fatte anche lì negli allevamenti dove avevamo messo le centraline meteorologiche, sono stati fatti anche dei controlli sugli animali, quindi prelievi di sangue, e misure del quantitativo di latte prodotto, e misure della qualità del latte prodotto e così via. E poi sono stati messi in relazione, per quanto riguarda gli anni precedenti, e i dati per esempio che si avevano sulla mortalità nelle diverse aziende. C'è un database completo di tutte le aziende italiane dove vengono giorno per giorno vengono registrati i decessi, e allora abbiamo potuto mettere in corrispondenza i decessi avvenuti nei periodi in cui ci sono state ondate di caldo. Tipo quella del 2003 mi viene in mente. Esatto, per esempio il numero di decessi, stavo così ragionando con i colleghi delle altre unità operative, per esempio nell'estate del 2003 il numero di decessi nell'estate è stato il 65-67% in più rispetto alla primavera 2003, quindi un numero molto elevato. Quindi un grosso lavoro di coordinamento, chiaramente. Di coordinamento, sì. Che devo dire, questo il DIPAN Latuscia è stato veramente un ottimo catalizzatore di tutte quante le forze. Sì. Va bene. Allora, dottoressa, buon lavoro e buon proseguimento degli studi su questo settore. Senz'altro, noi speriamo di poter proseguire queste ricerche anche con altri tipi di allevamenti e con altri tipi di animali, e magari focalizzarci su alcune regioni dell'Italia in particolare. Ci ricordiamo cosa succede nella vicenda del dottor Frankenstein. Un suo collega in università sta facendo vedere ai suoi studenti la differenza fra un cervello di una persona normale e quello di un criminale. La lezione finisce, vanno tutti via dal laboratorio e il maldestro aiutante di Frankenstein, inviato a rubare il cervello normale dal terribile medico che vuol costruire un corpo umano, fa cadere l'ampolla del cervello normale e, per timore di essere sgridato dal padrone, prende il cervello del criminale. Nella divertentissima parodia Frankenstein Junior c'è un momento nel quale la tragica sostituzione viene a galla. Vorreste dire che io ho messo un cervello abnorme in un energumeno lungo 2,20 metri e largo come un armadio a due ante? Canaglia! È questo che vorresti dirmi? Vi devo parlare di un libro, Elefanti in acido, questo è il titolo, edito da Baldini e Castoldi e scritto da Alex Böse, storico della scienza ma soprattutto abile e divertente analista di strane ricerche scientifiche. Così veniamo a sapere che durante tutto il XIX secolo, dal 1800 al 1900, c'era davvero una filiera, chiamiamola così, di scienziati, medici, convinti che si potessero fare cose molto strane con i corpi umani. E poiché siamo nel secolo della grande scoperta di tutte le prime applicazioni dell'elettricità, ecco che personaggi come Andrew Urey a Glasgow oppure l'italiano Giovanni Aldini in varie parti d'Europa, Aldini in pratica aveva messo in piedi uno spettacolo itinerante, e poi anche altri propongono esperimenti nei quali corpi umani privi di vita, e si trattava sempre di assassini giustiziati, venivano sottoposti a scariche elettriche in rappresentazioni pubbliche. Vi lascio la lettura del libro per le descrizioni su quanto accadeva con queste iniezioni di elettricità. Sì, adesso penserete che vi stia proponendo una lettura estiva macabra, intanto però non nascondiamoci che strangolamenti e pugnalamenti sono abbondantemente presenti nelle pagine gialle sfogliate sulle sedie a sdraio. E poi vi dico, primo, il testo è scritto con un tono molto umoristico, secondo, non tratta solo di cose tremende. Sì, il titolo Elefanti in acido rimanda a un pazzesco esperimento svoltosi nel 1962, durante il quale due psichiatri fuori di testa vollero provare gli effetti dell'LSD su un elefante dello zoo di Oklahoma City, somministrandogli tuttavia una dose 3.000 volte superiore a quella che può assumere un uomo, e un elefante non pesa 3.000 volte un uomo. Non finì bene l'esperimento, il pachiderma fece 3 volte il giro del recinto a velocità mai prima raggiunte, poi cappottò e decise di escludersi da questo nostro mondo pazzo. Tuttavia il libro parla di molti altri esperimenti strani e anche truffaldini, come quello con i grandi esperti di vino ai quali venne fatto assaggiare del bianco e poi del rosso, che in realtà era bianco colorato di rosso, e questi presero a trovare differenze caratteristiche di questi bianchi truffaldinamente, non so se si può dire, arrossati. Anche di bambini piccolissimi parla il libro, che li si lascia mangiare tutto quello che vogliono e così si scopre che se li lasciamo liberi, questa benedetta vicenda per cui non vogliono mangiare un sacco di roba è una pura falsità, mangiano di tutto, si tratta solo di mettere nelle condizioni più agevoli per loro. Allora, Elefanti in acido, 280 pagine, divertenti ma anche piene di molti spunti, devo dire, per riflessioni e discussioni con amici. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eh sì, eravamo un paese noto al mondo per la sua produzione di seta e quindi c'erano tanti bacchi. Barbara Galavotti vi racconta ora come mai le cose sono cambiate. La storia dei bachi da seta è nota. In Estremo Oriente venivano amorevolmente allevati già prima della nascita di Cristo e anche custoditi gelosamente. La seta era troppo preziosa per permettere a qualche paese concorrente di impadronirsi dei bachi e magari aprire una propria industria. Nel 530, però, l'incubo dei produttori di seta asiatici si avvera. Due monaci, appartenenti all'ordine di San Basilio, riescono a compiere un rischiosissimo furto e portano in Europa alcuni bachi nascosti nel cavo dei loro bastoni. Così, anche in Occidente, iniziò l'allevamento dei bachi e l'industria della seta. Fra alti e bassi, l'industria è poi andata avanti per 1500 anni. Non sempre le cose sono andate bene e oggi vanno purtroppo particolarmente male. Proviamo a capire perché con Silvia Cappellozza, ricercatrice presso l'unità di ricerca di api bachicoltura a Padova. Buonasera. Buonasera. Dicevamo che la produzione della seta in Italia è in crisi. Perché? Ci sono due ragioni principali. Allora, la prima è che nel dopoguerra c'è stato un forte spopolamento delle campagne, un esodo verso le città per un processo di industrializzazione che ha portato ad un alto costo della manodopera rurale che non è più competitiva con paesi in via di sviluppo o con paesi comunque con manodopera a basso reddito quali la Cina. La Cina è diventata monopolista e per espellere i paesi concorrenti dal mercato addirittura sta vendendo la seta a prezzi molto molto bassi e questa politica sta mettendo in seri problemi tutti gli altri paesi produttori di seta. L'altro problema invece che si verifica soltanto in Europa e in Italia in particolare è quello di una sostanza che si usa per combattere gli insetti parassiti dei meli e che arriva per deriva sulle foglie di dei gelseti. E questa sostanza non permette l'imbozzolamento delle larve del bacco da seta e quindi ha determinato la rovina della bachicoltura proprio in un periodo in cui invece c'era una possibilità di ripresa grazie anche ai sostegni comunitari. Quindi questo problema, lei diceva, è particolarmente presente in Italia e in Europa, come mai non è presente nel resto del mondo? Non è presente nel resto del mondo perché in altri paesi dove la bachicoltura è stata considerata una produzione più importante per l'economia si sono presi dei seri provvedimenti. Ad esempio in Giappone il prodotto è stato immediatamente bandito eppure il Giappone è una nazione industrializzata come noi e quindi ha le stesse problematiche per la frutticoltura che abbiamo noi. E anche se in Italia in realtà l'insetticida è stato bandito dall'uso, tuttavia viene utilizzato ancora illegalmente e i controlli non sono seri in maniera tale da scoraggiare le persone che lo usano illegalmente. Perché poi questo è un prodotto che ha la nefasta caratteristica di essere particolarmente di facile distribuzione? È di facile, soprattutto distribuito anche in dosi molto basse, è molto attivo e ne ignoriamo completamente l'azione sulle altre farfalle selvatiche che non sono studiate come il bacco da seta. Infatti il bacco da seta ha questa e l'ape, sono due insetti che hanno questa caratteristica principale, quella di essere delle sentinelle ambientali e quindi di dare un'indicazione anche sullo stato di salute dell'ambiente in cui ci troviamo. Quindi basta un campo errorato con questa sostanza e poi il vento fa il resto e lo porta anche a chilometri di distanza. Sì. se pensiamo che noi abbiamo, vediamo molte volte arrivare sulle nostre città la sabbia del deserto portata dal vento, possiamo immaginare quanto un prodotto così leggero e dato con le macchine irroratrici, magari in giornate ventose, possa arrivare a chilometri di distanza. Le nostre sperimentazioni hanno provato che arriva almeno da 40 chilometri di distanza dal punto in cui viene irrorato. Quanti sono gli allevatori rimasti in Italia in queste condizioni? Purtroppo ormai si contano sulle dita di una mano, mentre una volta la bachicoltura era un'attività importantissima per tutta la nostra economia agraria e forniva il primo raccolto dell'anno e il primo reddito dei nostri agricoltori. Gran parte delle nostre tradizioni e anche dei nostri modi di dire si rifanno infatti alla bachicoltura, e questa permea ancora fortemente tutta la nostra società e tradizione contadina. Però non è la prima volta che l'allevamento dei bachi da seta è messo a repentaglio. No, purtroppo il bacco da seta ha questa caratteristica che più volte nel corso della storia la bachicoltura ha subito dei forti danneggiamenti. Nell'Ottocento, ad esempio, è stato introdotto in Europa un parassita, si trattava di un protozoo, il Nosema bombicis, che ha portato quasi all'azzeramento della bachicoltura in Italia e in tutta Europa. Si ricorderà certamente il famoso libro La seta di Baricco, che narra proprio le vicende di un commerciante che dall'Estremo Oriente portava il seme sano in Europa per appunto cercare di ovviare a questo grosso problema. Voi fate ricerca sui bachi da seta, ci racconta di cosa vi occupate? Noi ci occupiamo di bacco da seta e di gesso, poiché il gesso è una pianta legata al bacco da seta, ma anche ad altri utilizzi, come l'utilizzo per la frutta, per l'impiego da biomassa e per la fibra. E per quanto riguarda il bacco da seta, invece, gli impieghi tradizionali sono quelli che riguardano il settore tessile. Impieghi nuovi sono quelli che riguardano la possibilità di sfruttare questo insetto come bioreattore per la produzione di proteine da utilizzare nel campo farmaceutico. Quindi bachi geneticamente modificati in modo da produrre delle molecole che sono utilizzabili come farmaci. Esattamente, questo nel bacco da seta è un campo applicativo particolarmente importante, proprio perché il bacco da seta è un insetto addomesticato da millenni dall'uomo, non vive in natura, quindi non è possibile che il bacco da seta provochi una contaminazione ambientale, non è classificabile come organismo geneticamente modificato, liberato nell'ambiente, perché non esiste nell'ambiente allo stato selvatico, e d'altra parte ha una grossa capacità di produrre proteine superiore a qualsiasi altro sistema oggi conosciuto, come le colture cellulari oppure i bioreattori. Ecco, a proposito di quante proteine produce, quanta seta produce un baco? Allora, noi sappiamo che un bozzolo, che è filato da un'unica larva, dà un filo lungo circa 1000-1200 metri, ma può arrivare, in alcune razze particolarmente produttiva, anche ai 2000 metri. Quindi è un unico filo lungo 2 chilometri. Grazie Silvia Cappellozza, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Magari vi è sfuggita all'interno del servizio la soluzione del nostro quiz, vi ricordo la domanda: un bacco da seta, uno solo, quanto filo può produrre, cioè qual è la lunghezza massima di questo filo? Ebbene, la risposta prodigiosa, devo dire, è 2 chilometri. È capitato spesso nella nostra trasmissione di parlare dell'Area Science Park di Trieste. Non è difficile farlo perché in questo centro si fa probabilmente maggiormente e meglio che in altri posti in Italia quel difficile lavoro di recuperare idee della ricerca scientifica per farle diventare, costruendovi attorno un'azienda, delle innovazioni da introdurre nel mercato. Questa sera è ospite con noi il direttore del centro, Giancarlo Michellone. Buonasera Michellone. Buonasera a lei. Allora, noi stiamo per parlare di un'iniziativa che si chiama Business Day, è una vostra iniziativa che ci sarà a ottobre, e dei particolari di questa iniziativa, che coinvolgerà appunto tante idee diverse, magari ne parleremo più avanti. Ne parliamo invece adesso, anticipatamente, perché ci sono degli aspetti abbastanza interessanti che riguardano questo incontro tra idee nuove nuove, prodotte tendenzialmente da giovani, da aziende giovani e quindi da ricerche che sono un po' di frontiera, e invece aziende consolidate. Il Business Day sarà un appuntamento di questo genere, no? Cioè voi avete invitato, avete selezionato una serie di aziende che sono già da tempo sul mercato e per far proporre loro delle nuove idee, no? E questa è l'impostazione, certo, generale. Questa è l'idea. Questa è l'idea. Anche bene selezionato. Un po' selezionato, perché è importante quando si fa innovazione non andare a caso, non mettere tutto in una cesta, in un bidone. Ecco, però di solito questi appuntamenti prevedono una parte iniziale in cui quelli che hanno le idee fanno la loro relazioncina e poi iniziano gli incontri con gli eventuali interessati imprenditori. Invece voi avete scartato questa parte e li avete già messi faccia a faccia. Sì, anche perché non vogliamo che la gente, i ricercatori, vengano a raccontare le idee, le competenze che hanno, quelle le diamo per scontate. Vogliamo che i ricercatori, anche le imprese che sono nel nostro parco e che cercano di fare joint venture o comunque delle partnership o comunque di cedere loro risultati, ecco, vogliamo che parlino direttamente dei risultati. Dei risultati. Risultati che possono andare sul mercato. Lì entra in ballo, diciamo, un momento molto particolare di questo incontro, perché ci sono quelli che hanno delle idee ma conoscono ancora poco tendenzialmente quelli che sono i processi aziendali, e ci sono gli imprenditori che hanno bisogno di cose molto concrete. Allo stesso tempo però è anche vero che l'innovazione nasce anche dal fiuto che ha un imprenditore, certo, per delle cose che non sono magari molto formate ma che bisogna capire come potrebbero svilupparsi in futuro. Non è facile dal punto di vista psicologico, sociologico, questo incontro. Assolutamente, anzi credo che sia il fatto più difficile. Il trasferimento tecnologico è molto difficile proprio perché si devono incontrare culture molto diverse, con obiettivi diversi. Se lei lascia parlare, fa una conferenza in cui il ricercatore viene a dire i suoi risultati, nel 99% dei casi il ricercatore dirà quanto è stato difficile, quanto ha dovuto sudare, quindi quanto è stato bravo per ottenere questo risultato che è tecnologicamente o scientificamente magnifico. All'imprenditore di tutto questo discorso, beh, ne prende atto, ma non è quello che gli interessa. L'imprenditore deve capire qual è il rischio che lui corre e quale sarà il successo sul mercato. Quindi non solo parlano linguaggi diversi, ma hanno anche mire differenti. Quindi bisogna trovare dei metodi diversi da quelli soliti, più facili, per fare in modo che la scintilla scocchi fra i poli, no? E lei però vedeva un primo pezzo che indubbiamente è importante della cosa, cioè il fatto che per esempio i ricercatori o i giovanissimi imprenditori hanno un'idea un po' astratta, molto grezza di come deve procedere un'azienda che ha bisogno di risultati. Però un grande imprenditore è anche quello che in una cosa grezza, che magari può dare risultati dopo qualche anno, riesce a intravedere, no? E allora lì, certo, deve essere capace di interpretare, certo, chi ha di fronte. Infatti ci vogliono le eccellenze sia della ricerca sia del mondo dell'imprenditoria. Noi per aiutarli, per preparare gli imprenditori, per andare a caccia degli imprenditori che servono, ogni azienda fa una scheda molto semplice dove dice che cos'è il suo risultato, dice anche cosa si aspetta dall'imprenditore e che cosa chiede. Questo lo mandiamo a un certo numero di imprenditori, loro devono, e lì vedremo quali sono che riescono già a capire: oh, guarda, mi propone un congegno elettronico per un certo scopo, ma mica vero, io faccio tutt'altro, ma se questo congegno ha le prestazioni che mi dicono, i costi eccetera eccetera, bene bene, forse mi può servire in altri settori. Sì sì, concretezza e intuito sono, sì, i due. Sì, perché l'altra sfida, cioè se vuole la difficoltà aggiunta dei nostri tempi, è che una volta anche il mondo scientifico, tecnologico, imprenditoriale era molto semplice. Un imprenditore conosceva i suoi concorrenti, che in genere erano su un'area geografica limitata dove lui aveva il mercato. In realtà adesso non solo i concorrenti vengono da tutto il mondo, ma possono anche provenire da settori completamente avulsi dal suo. Pensi all'elettronica, all'informatica, alla telematica, sì, sì, poi sì, a quello che sta nascendo adesso, le micro-nano biotecnologie. Quindi ci sono molte più opportunità, ma anche molti più pericoli da moltissimi settori. Giancarlo Michellone, grazie. Seguiremo i risultati del Business Day più avanti. E speriamo che abbia successo. Grazie, arrivederci. Arrivederci, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Viviamo in un mondo di reti, c'è la grande rete che è internet, e dentro la quale già ci sono migliaia di altre reti, quelle fatte da persone con identici interessi o progetti, hobby, e chi più ne ha più ne metta. Ma in generale il mondo è sempre più occupato da reti. Il sistema di strade che caratterizza un determinato territorio, per esempio, stabilisce un certo tipo di relazione fra le persone, che sarebbe diverso se quel sistema di strade fosse altro. Poi ci sono altre reti, quelle che rappresentano per esempio il traffico aereo internazionale. Va bene, ecco allora che abbiamo come ovvia conseguenza una scienza delle reti che sta crescendo, perché ha senso provare a vedere gli aspetti che mettono insieme reti diverse fra loro e ovviamente anche tutte le differenze. A Venezia si sono appena conclusi 5 giorni di incontri su questo tema. Ne abbiamo parlato con Guido Cardarelli, primo ricercatore presso il Centro di Statistical Mechanics and Complexity del CNR, INFM, che si trova presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma. A Cardarelli ho chiesto come si è arrivati a questa possibilità di interpretare tanti fenomeni diversi come reti. Quello che è capitato a partire dagli anni Ottanta è che c'è stata una rivoluzione nel mondo dovuta alla informatizzazione. Quindi computer, hanno questa presenza di computer massiccia nella nostra società, ha creato 2 effetti. Da una parte la potenza di calcolo è molto aumentata e la potenza di analisi è molto aumentata, quindi si sono creati dei database enormi che non c'erano mai stati prima, e sono i database delle transazioni finanziarie, i database per esempio biologici, degli esperimenti che vengono fatti, per esempio lo studio del DNA che è stato sequenziato e scritto tutto. E dall'altra parte questa rete di computer ha creato anche un sistema enorme come numero di elementi, questi computer collegati fra loro, che ha formato internet. Quindi da 20 anni si ha a che fare con dei sistemi di cui prima non si aveva conoscenza, di una mole enorme, fatti da un grandissimo numero di parti. Una volta che si è arrivati a questa situazione, nel campo culturale, diciamo in tutte le varie discipline, è emersa una stessa metodologia per rappresentare e studiare questi sistemi, che è la teoria delle reti, che consente di modellare questi sistemi, consente di estrarre informazione da questi sistemi, quindi di ridurre il numero di elementi, che sono così tanti, il numero delle correlazioni degli elementi, a un numero che è possibile gestire e capire, rende possibile visualizzare questi sistemi complessi, perché la rete è un potente modello visivo per capire chi è più centrale, chi è più connesso, chi è meno connesso. Quindi è stata proprio una situazione dovuta a questa trasversalità, diciamo, della rivoluzione informatica, che ha fatto emergere nelle varie discipline gli stessi bisogni e poi ha dato le stesse risposte. E all'interno di questa grande disponibilità strumentale fornita dai computer, mi sembra che internet sia stato un ulteriore salto gigantesco, perché lì c'è la rete, addirittura fornisce come un territorio, no? In cui le reti si manifestano. E da una parte si capisce che, proprio anche per quanto riguarda i comportamenti umani, abbiamo un laboratorio che prima non c'era, perché in fondo queste relazioni ci sono sempre state. Internet le rende, come dire, molto più vicine a quello che può essere un discorso scientifico. Ci si potrebbe domandare se c'è qualche rischio nel interpretare troppo le cose attraverso la rete, tenendo presente che invece sono evidentissimi i vantaggi, insomma. Sì, questo è vero. Noi non dobbiamo pensare ogni volta che si fa un piccolo progresso che questo cancelli quello che è venuto prima. La scienza in qualche modo aggiunge, non toglie mai. E quindi questo nuovo approccio che c'è nella teoria delle reti non è sostitutivo di quello che si faceva prima. Però la possibilità che dà una teoria matematica come la teoria dei grafi di poter quantificare alcuni tipi di relazioni sociali è una novità molto importante, è una novità che va studiata, perché consente per esempio di determinare in maniera quantitativa l'importanza di un individuo all'interno di una comunità, l'importanza di una pagina web rispetto alle altre. Naturalmente c'è un rischio adesso di pensare che tutto sia risolubile con la teoria delle reti, ma è sicuramente una teoria che evidentemente, cioè è chiaro, che presenta molti vantaggi rispetto al passato. Era probabilmente inevitabile, anzi l'avete progettato, parlare di economia. E parlare di economia nel 2009 non è certo un anno dei tanti. Si è analizzata molto la relazione tra gli strumenti che sono stati applicati per gestire i fenomeni economici e i risultati che ci sono stati, e quindi questa crisi pesantissima. La sua opinione che cos'è su questa relazione, che indubbiamente è un po' problematica, perché certo quello che uno vorrebbe da dire è: ma come mai, se vediamo delle equazioni matematiche scritte su una lavagna che ci parlano di economia e poi non ci accorgiamo che stiamo entrando in un baratro per 2 anni, è uno strano uso della matematica. Beh, allora, la finanza, come molti altri campi, è un classico esempio di sistema complesso. Un sistema complesso è un sistema composto da un enorme numero di parti che, proprio per questa sua grandezza, sviluppa delle proprietà nuove che uno non può prevedere guardando i semplici costituenti. Per esempio, in un gas, nell'aria che sta intorno a noi, sappiamo che quest'aria è fatta da, possiamo modellizzarla, da atomi che sono come delle palline da biliardo. Allora, posso immaginare una pallina da biliardo che fa su e giù, rimbalza contro le sponde, e non è particolarmente interessante come fenomeno da descrivere. Ma se noi prendo un numero sterminato, che è il numero di atomi che ci circonda, allora qui nascono delle cose nuove. Per esempio, questo insieme di palline sviluppa quella che noi chiamiamo temperatura, pressione. Più il sistema finanziario, per esempio, che è la cosa di cui stiamo parlando, cresce, perché il numero di agenti che investe cresce, il numero di strumenti con cui si può investire cresce, e più è molto difficile capire che cosa succede, esattamente come è difficile pensare, guardando una pallina da biliardo, che se ne prendo tante possono formare un sistema che ha una certa temperatura. No, uno deve avere molta fantasia per capire questo. Per quella che è la mia esperienza, noi abbiamo per esempio studiato un aspetto minimo di questi sistemi finanziari, che è la rete di crediti e prestiti fra le banche. Mi sono molto stupito del fatto che le banche si vendessero null'altra denaro. No, diciamo, il denaro serve a comprare le cose, invece è esso stesso una merce. Allora, c'è questo sistema di credito che è quello che le banche usano per la loro liquidità. Se uno però lo rappresenta come una rete, quindi fa il primo passo verso la descrizione di questo sistema finanziario come un sistema complesso, allora vede che questa rete ha delle proprietà particolari, come molte altre reti di cui si parla qui, è una rete invariante di scala. In soldoni c'è una banca che ha molti legami e ce ne stanno tante che ne hanno pochi. C'è una banca che fa molti prestiti e debiti e altre che ne fanno uno e due ogni tanto. Allora, quando uno vede questa cosa con gli occhi dello studioso di sistemi complessi, capisce che c'è una fragilità. Se quella banca centrale che fa tutti questi prestiti o crediti di denaro alle altre banche ha un problema per cui va in bancarotta, questo distrugge completamente il sistema. Quello che sembra dall'universalità con cui troviamo reti con queste caratteristiche, quello che sembra appunto è che naturalmente questi sistemi evolvano verso una situazione di fragilità. Perché stiamo cercando di capirlo? Come intervenire? Anche stiamo, però teniamo sempre presente che il sistema è complesso, appunto, e quindi non è semplice definire una causa ed un effetto. Faccio un esempio, non vorrei divagarmi troppo, però negli anni 70 nel Nord Atlantico, quindi un sistema che sembra molto diverso da quello finanziario, ma in realtà è molto simile perché la struttura matematica è la stessa, c'è ancora tuttora un problema per quanto riguarda i pescherecci, per quanto riguarda la pesca, la pesca del merluzzo, che era la principale fonte di sostentamento dell'azienda in quella area. E allora, diciamo, questi merluzzi erano sempre di meno, si è pensato: io individuo la rete di predazione, la catena alimentare di questi merluzzi, loro hanno delle prede, hanno dei predatori, che cosa faccio? Io mi metto a cacciare i predatori dei merluzzi, li uccido tutti nel mare, faccio questo intervento, perché così penso che questo darà più sollievo ai merluzzi, li farà crescere. È una cosa che io faccio dall'esterno su questo sistema complesso per aiutarlo. Allora, quello che è successo è che i merluzzi sono diminuiti ancora di più. Perché? Perché in tutta questa rete, questo sistema di controreazioni, quello che è successo è che i predatori dei merluzzi erano anche predatori delle stesse specie che con i merluzzi competono per le risorse. Quindi, levando i predatori, abbiamo aiutato non solo i merluzzi, ma i loro competitori, e anzi molto di più i loro competitori che i merluzzi, e quindi abbiamo fatto peggio. Quando un sistema è composto da tante parti che sono interconnesse fra loro in maniera non semplice, capire cos'è la causa e quale sarà l'effetto non è così semplice. Una volta i poeti potevano accennare al cinguettio dei passeri, per esempio in quelle sfiancanti poesiole del Pascoli, e tutti veniva in mente lo stesso suono, la stessa voce del passero. Chiara Albicocco sta per raccontarvi che non è più sempre vero. Non ci sono più i cinguettii di una volta. E potrebbe essere questo un nuovo modo di dire, dettato dalla nuova scoperta di un'ecologa americana. Elizabeth Derry Berry, questo è il suo nome, ed è ricercatrice del Museo di Scienze Naturali della Louisiana State University. E lei ha studiato il canto del passero dalla corona bianca, Zonotrichia leucophris, per dirlo in termini rigorosamente scientifici. La Derry Berry ha confrontato le registrazioni del cinguettio di questi volatili, raccolte nel 2003, con quelle archiviate e registrate nel 1970. Ebbene, l'elaborazione dei dati ha portato ad un risultato imprevisto e mai riscontrato prima in letteratura scientifica. L'uccellino americano, infatti, ha modulato il proprio canto in risposta ai cambiamenti ambientali subiti dal proprio habitat. E sì, sembrerebbe proprio così. Cioè, questa specie ha sviluppato un canto meno intenso, più grave e anche più lento, perché le praterie in cui prima si riproduceva e viveva si sono progressivamente trasformate in foreste. Ovviamente, per verificare quanto emerso dal confronto dei canti, sono state utilizzate anche delle fotografie aeree, che hanno in effetti rilevato un cambiamento della vegetazione in quell'area. La spiegazione a questo tipo di fenomeno può sembrare complessa, in realtà la ragione è piuttosto semplice e va ricercata nel fogliame. Infatti le foglie degli alberi producono una sorta di eco, di riflessione del canto dei volatili. Pertanto, più grave e basso sarà il suono emesso, maggiore sarà la penetrazione del richiamo tra il fitto fogliame. Ecco, a dimostrazione di questo ci sono anche le registrazioni di volatili di prateria, che in effetti hanno dei canti più acuti e molto più veloci. Dunque, le conclusioni non so se siano preoccupanti o meno, bisognerebbe chiederlo a questi passeri se in realtà hanno riscontrato un cambiamento anche nel successo riproduttivo. Una cosa è certa, i cambiamenti climatici stanno provocando sul pianeta e soprattutto sugli esseri viventi delle conseguenze davvero imprevedibili. Torneremo in una prossima puntata su questo tema della crisi economica e degli strumenti tecnici per gestire l'economia. È un tema che, vedrete, sarà di attualità per molto tempo. Invece la prossima settimana andremo in onda esattamente nei giorni in cui 40 anni fa Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins stavano viaggiando verso la Luna. Dedicheremo un po' di spazio a questo tema anche per ragionare su un certo diffuso scetticismo che esiste fra gli addetti ai lavori in merito all'idea di ritornare lassù. Pare che non serva a niente, mentre su Marte c'è molto più accordo. Vi diremo. Buona serata a tutti e a tutte e arrivederci alla prossima settimana.